va a trovare la signorina Yolanda, ma la signorina Yolanda o è in ufficio o non è in ufficio. Se la signorina Yolanda fosse in ufficio e di buon umore, lei potrebbe parlarne un momentino in attesa del ritorno del capo ufficio. Ma se la signorina Yolanda non c'è, non le resta che fare il giro dei diversi uffici che costituiscono tutto parte dell'organizzazione che le dà lavoro, in attesa del momento più propizio per andare a trovare il capo ufficio. Supponiamo che la signorina Yolanda non sia in ufficio. In questo caso, lei fa il giro dei diversi uffici che costituiscono tutto parte dell'organizzazione che le dà lavoro e aspetta un momento più propizio per andare a trovare il capo ufficio. Lei torna a trovare il capo ufficio, o è in ufficio o non è in ufficio. Se fosse in ufficio, lei busserebbe e aspetterebbe la risposta. Ma supponiamo piuttosto che non sia in ufficio. In questo caso, lei spia il suo ritorno in corridoio. Lei spia in corridoio il ritorno del capo ufficio. O tarda a tornare, oppure non tarda. Se non tardasse a tornare, lei potrebbe andare a bussare al suo ufficio e aspettare la risposta. Ma se tardasse a tornare, la cosa migliore che lei potrebbe fare sarebbe andare nell'ufficio vicino a trovare la collega, la signorina Yolanda. Supponiamo, cosa che succede tutti i giorni, che il capo ufficio tardi a tornare. In questo caso, lei va a trovare la signorina Yolanda. Lei va a trovare la signorina Yolanda. O lei è in ufficio, oppure non è in ufficio. Se fosse in ufficio e di buon umore, lei potrebbe parlare un momentino con lei. Se non ci fosse, non le resterebbe che fare il giro dei diversi uffici che costituiscono tutto parte dell'azienda che le dà lavoro in attesa di una circostanza più favorevole per andare a trovare il capo ufficio. Supponiamo, per semplificare, dal momento che bisogna sempre semplificare, che la signorina Yolanda sia in ufficio. In questo caso potrà chiacchierare un istante con lei, purché sia di buon umore, perché se la signorina Yolanda non è di buon umore, a lei non le resterà che fare il giro dei diversi uffici che costituiscono tutto parte dell'azienda che le dà lavoro in attesa di una circostanza più favorevole per andare a trovare il capo ufficio. Supponiamo, cosa che succede tutti i giorni, che la signorina Yolanda non sia di buon umore. In questo caso lei fa il giro dei diversi uffici che costituiscono tutto parte dell'azienda che le dà lavoro e aspetta una circostanza più favorevole per andare a trovare il capo. Siamo in onda, buongiorno a tutti, buongiorno Radio Antidoto, questa è Rigonia, siamo tornati dopo una lunga pausa, sono le 13.03, è il 7 luglio 2020 e in questa puntata di ritorno dopo una lunga pausa, infatti vedi la mia favella è andata un po' perdendosi, lavoriamo in condizioni tecniche nuove, diciamo sperimentali, in realtà niente di nuovo per una radio normale, ma per la nostra radio sì. In studio con me, cioè a casa mia, c'è Marco Pozzi, ciao Marco. Ciao Francesco. Parliamo entrambi a un unico microfono, io come sentite urlo un po' di più perché sono quello più lontano dal microfono. E poi in onda con noi c'è un altro Marco, che è Marco Monfredini, ciao Marco. Ciao ragazzi. Ok, adesso sappiamo anche che il tuo segnale si sente correttamente, il quale è attaccato al telefono. E Marco, per presentarti devo anche farti una prima domanda. Cioè, io non so esattamente qual è la tua nomina ufficiale. Cioè, ufficialmente, il tuo, cioè, cosa sei? Chi sei? Guarda, ufficialmente potrei essere tante cose. Vai, scegliamone una. In questa giornata posso dirti di essere la persona che si occupa, il referente delle biblioteche della casa circondariale Lo Russo Cotugno di Torino. Okay. Mi occupo delle 4 biblioteche della sezione maschile. Ok, quindi il referente, nel senso che poi uno deve trovare le parole, perché non sei sicuramente il direttore, non sei, come dire, non sei l'impiegato, cioè ci vuole, bisogna inquadrare un pochettino il tuo ruolo, ma anche perché tu, a differenza mia, fai già una specificazione, cioè delle biblioteche, e torneremo su questo argomento. Prima però di affrontarlo, dico ancora due informazioni, come dire, di rito, di servizio per chi ci ascolta, soprattutto dalla nostra chat Telegram, ma anche come ormai è mia abitudine fare, le persone che ci ascolteranno su podcast. Come avrete capito, questa è una delle trasmissioni che facciamo in collaborazione con l'associazione Il Contesto e il blog Dentro e Fuori, di cui io e Marco siamo esponenti, e si torna a parlare di vita carceraria e di diritti del carcerato. E quindi, tornando a te Marco, tra l'altro, aspetta, magari sposto il telefono perché altrimenti mi sembra di darti le spalle, e, a parte che così non vedi nessuno dei due, va, ti faccio inquadrare Marco. Vedo solo... Allora, Marco M, tu appunto ci hai detto sei il referente delle biblioteche della casa circondariale Cotugnolo Russo di Torino, quindi hai già dato delle informazioni. Dentro il carcere di Torino c'è una biblioteca e non è una sola biblioteca. Cioè, come funziona? Allora, le biblioteche del carcere fanno parte del circuito di biblioteche della città, quindi del sistema bibliotecario urbano. All'interno del carcere noi siamo presenti con 5 biblioteche, 4 sono nei padiglioni maschili e una nel padiglione femminile, proprio perché il carcere di Torino è abbastanza un luogo articolato e complesso, una piccola città, e quindi c'era bisogno di avere più presidi all'interno della struttura per dare un servizio adeguato. E ti faccio una domanda io, se posso, visto che noi ci siamo conosciuti quando tu le stavi costruendo quasi le biblioteche, mi ricordo che ci stavi dando un bianco, quindi sei partito quasi da zero. Cosa c'era prima di te? Terra bruciata, rovina? Allora, diciamo che io sono arrivato circa 4 anni fa, non partivo da zero perché prima di me c'è stata una persona che è stata per quasi 30 anni ad occuparsi di quella biblioteca. Ovviamente negli ultimi anni lui è andato in pensione ed era anche volontario, quindi diciamo che lui aveva lasciato un po' la situazione così come l'aveva. Ovviamente arrivando una persona nuova con delle energie, con una voglia di fare, mi sono messo subito a ricostruirle tutte, quindi c'erano dei piccoli presidi che erano degli spazi molto piccoli. E la prima cosa che ho fatto è stata proprio quella di andare dalla direzione e di chiedere se si potevano avere delle sale un po' più grandi, più adeguate, proprio per aumentare sia il patrimonio del librario, ma anche per poter avere uno spazio dove organizzare, come stiamo facendo in questi ultimi 4, una serie di tanti incontri con varie personalità, artisti, scrittori, musicisti. E quindi sì, sono partito proprio da lì, fisicamente, da ricostruirle tutte, farle anche belle, perché devono essere dei luoghi dove appunto il detenuto va e si sente anche un po' da un'altra parte. Come è stato? La sfortuna di entrare. Sì, naturalmente. Hai visto che sono dei luoghi comunque piacevoli dove stare. Com'è stata la tua esperienza di fare questa attività? Nel senso che noi conosciamo il carcere e lo conosciamo magari da un punto di vista un po' problematico, laddove fare cose non è sempre la cosa più facile da fare. Tu che tipo di risposta hai ricevuto? Nel senso, l'amministrazione ti ha aiutato? Sei riuscito? Cioè, quante e quali difficoltà hai dovuto affrontare? Tra l'altro, devo dire che probabilmente non così tante, perché io posso dirlo, gli spazi bibliotecari nel carcere di Torino sono belli, quindi mi sembra di capire che sia stata una... cioè, che non aspettassero altro che una persona come te. Allora, possiamo dividere il discorso in due, nel senso che sicuramente c'è stata la volontà di investire proprio sulle biblioteche come luoghi all'interno del carcere. Ovviamente poi è stato tutto complicatissimo invece da realizzare, perché poi nella pratica, come uno può immaginare, ci si scontra con tante questioni burocratiche, e quindi è stato molto molto complesso, è durato 2 anni questo lavoro. E adesso da un paio di anni, come dire, stiamo godendo i frutti di tutto quello. L'investimento c'è stato anche dal punto di vista proprio dell'investire sui detenuti, perché appunto adesso le biblioteche, all'interno delle biblioteche lavorano 2 detenuti in ogni biblioteca, uno è assunto proprio dal carcere, quindi viene pagato, e uno volontario. Invece nella biblioteca centrale, che è un po' più grande, entrambi sono pagati, quindi c'è stata proprio anche una volontà di investire da tutti i punti di vista. Quindi praticamente ci sono 3 detenuti che hanno un lavoro dentro il carcere. Sì, ci sono, in realtà sono 2, 3, 4, 5, perché c'è anche la biblioteca femminile, quindi nel complesso sono 5 persone che vengono pagate per questa attività. E che avevano seguito anche dei corsi, vero? Le avevi fatto dei corsi di catalogazione, esatto, archivistica? Esatto. Sì, facciamo contazione, perché come potete immaginare ogni tanto, fortunatamente per loro, le persone escono, quindi La fatica è anche un po' quella sempre di ricominciare da capo, di reinvestire su una persona nuova che, insomma, che deve imparare da zero comunque questo lavoro. Ma per entrare, diciamo, siccome una delle più grandi esperienze che noi facciamo come volontari è sempre confrontarci con quanto poco si sa del carcere fuori dal carcere, e adesso che non entriamo più tanto, noi stessi siamo in difficoltà rispetto al carcere perché ne sappiamo pochissimo, e quindi prima della diretta ti abbiamo cercato di estorcere ogni possibile novità perché è veramente difficile. E naturalmente la nostra voglia è anche quella di raccontare, come dire, cose che sembrano anche banali rispetto a una cosa come può essere la biblioteca del carcere, anche perché rispetto ad altri aspetti della vita carceraria la biblioteca ha un suo immaginario, perché nei film o nei racconti è abbastanza comune sentir parlare di detenuti che leggono. A me una dei ricordi più forti che mi è rimasto quando ho letto l'autobiografia di Malcolm X è che Malcolm X, che in questa autobiografia calcava molto la mano sul fatto che lui prima del carcere fosse davvero un gangster, una persona, diciamo, tra virgolette, deviata, prendesse molto sul serio la presenza della biblioteca in carcere, e lui dice, poi io non so, nel senso non sono andato a verificare se fosse vero, che lui ha letto tutto il vocabolario, cioè si è messo lì, da là, un giorno dopo giorno, con molta pazienza, è arrivato fino alla Z, e alla fine, quando aveva finito di leggere tutto il dizionario, ha detto: io ero una persona illuminata. Che uno gli viene a dire: beh, grazie a ca-, cioè, complimenti, cioè, effettivamente così è facile. Però, nel senso, quindi, leggere in carcere può essere percepito anche come una cosa banale, nel senso, sembra quasi normale. Però, di fatto, come funziona? Cioè, io sono un detenuto. Sti libri, da dove mi arrivano? Allora, anche lì, essendo il carcere di Torino, sono quasi 5 carceri in uno solo, quindi ogni padiglione ha un funzionamento completamente diverso. Per cui ci sono 2 biblioteche dove effettivamente i detenuti possono scendere, che sono quella del padiglione E, che è un padiglione dove ci sono delle persone che frequentano una comunità, c'è il polo universitario, c'è la squadra di rugby. Loro hanno la possibilità di accedere direttamente un giorno alla settimana, ogni sezione. E così anche al femminile, perché sono comunque padiglioni dove ci sono più o meno un centinaio di persone, quindi anche dal punto di vista logistico, della sicurezza, dei permessi, eccetera, è più semplice da gestire. Gli altri 3 padiglioni hanno le loro biblioteche di riferimento e una volta, 2 volte alla settimana passano i bibliotecari con il carrello nelle sezioni, perché fisicamente non si possono recare in biblioteca. Tutte queste persone invece si recano in biblioteca scegliendolo quando ci sono le attività culturali di vario tipo che facciamo durante l'anno. Quindi al momento l'organizzazione è questa, per cui loro comunque sono raggiunti fisicamente dai libri con il servizio ai piani, diciamo. E quindi non hanno soltanto un catalogo cartaceo da vedere, oppure scegliere un libro sulla base di non so neanche che cosa, come era prima. In questo modo, infatti, da quando c'è questo servizio i prestiti sono quintuplicati. Ma scusami, ma quindi la persona col cioè quando passa la persona col carrello io ti posso ordinare il libro? Esatto, tu puoi prendere tutti i libri che ci sono sopra quel carrello, che vengono cambiati di settimana in settimana, e ovviamente puoi fare tutte le richieste che vuoi rispetto ad altri libri che possono esserci in biblioteca. Ma e la domanda è... avere queste persone bibliotecari che sono in quelle sezioni ti consente di dargli il servizio comunque costantemente, nel senso che se ti chiede un libro oggi, anche se non passa il carrello, domani il bibliotecario domani mattina te lo porta, quindi ti arriva subito, non devi aspettare il carrello della settimana dopo. Certo, ma domanda banale. Diciamo che il carrello... Sì, dimmi. No, volevo chiederti quanti volumi ci sono nel carcere di Torino? Allora, fra tutte le biblioteche noi abbiamo circa 25.000 volumi. La nostra grande fortuna, cioè la nostra grande potenzialità, non fortuna, ho sbagliato il termine, è quella di essere parte del circuito delle biblioteche delle cittadine, quindi noi abbiamo più di 1 milione di libri disponibili. Perché volendo tu puoi fare la richiesta per un libro esterno. Esatto, con una tempistica di una o due settimane, giusto il tempo di farlo arrivare, però le persone possono avere anche libri dalle biblioteche esterne, quindi... Cioè, penso sia un servizio veramente di eccellenza da questo punto di vista. Beh, eccezionale. E l'altra domanda che ti volevo fare è: ma chi prepara l'offerta sul carrello? Cioè, da dove nasce? Cioè, i libri che... L'offerta su... I libri itineranti l'offerta del carcere sul carrello, ovviamente... che è molto, molto io lascio e voglio lascio molta fantasia a loro, perché il mio ruolo sta proprio in quello di coordinare, non di, di imporre delle cose dall'alto, quindi cerco insieme a loro nella fase iniziale in cui loro arrivano in biblioteca di fare certi ragionamenti, poi gli si fanno gli incontri con gli autori, si fa tutto un percorso con loro che poi li mette anche nella condizione di poter organizzare un carrello anche poi sulla base delle richieste che loro ricevono quando vanno in sezione, certo. Quindi loro hanno ben presente qual è la richiesta di libri. Quindi tu praticamente hai una specie di, come dire, team di agenti, tra virgolette, interni. non li chiamare così. No, no, vabbè, sì. Tanto. Beh, perché si chiamano assistenti. Sai, io sono stato redarguito che le avevo chiamate guardie una volta. Quelli del polo mi hanno corretto, mi hanno detto no, non si chiamano guardie, si chiamano assistenti, quindi potremmo usare anche lo stesso nome in questo caso qui, cioè i tuoi assistenti, i tuoi, ancora meglio, come potremmo dire, i apprendisti. Loro praticamente tu li hai formati, diciamo, sulla base su come funziona una biblioteca, su che cosa devono chiedere a chi prende in prestito, cioè ai diritti e doveri della persona che chiede in prestito un libro, e loro attraverso questa attività itinerante di raccogliere i libri in prestito e proporre libri in prestito formano se stessi rispetto alla richiesta che c'è in carcere e formano anche il loro gusto. Certo, certamente. Ti faccio l'esempio, l'ultima persona che ha lavorato in biblioteca, in quella centrale, che adesso è stato quasi un anno e mezzo, adesso per altre questioni ha preso un'altra strada. Lui non aveva mai letto, non sto raccontando una cosa tanto per fare sensazionalismo, non aveva quasi mai letto un libro. E all'inizio neanche tanto leggeva. Dopo un po' che ha iniziato, lui stesso ha iniziato a leggere 5 libri alla settimana, non al mese, 5 alla settimana. Quindi, e adesso che ha cambiato il reparto, eccetera, continua a chiedere libri in biblioteca. Non sono tutti così, devo dirti la verità. Però caso in cui la persona scopre il piacere della lettura anche, come dire, facendo questo lavoro, diciamo, e che scoprire il piacere della lettura significa che parlo con gli altri, quindi incentivare la lettura rispetto agli altri, perché comunque sai consigliare anche i libri. Certo, ma anche perché il tuo collaboratore interno sviluppa una competenza sul campo rispetto a quello che piace, quello che viene letto, e imparando anche un po' a fare le proposte, che diventano tutti dei piccoli Piero Dorfles, cioè nel senso, cioè maturano un'esperienza libraria che persone come me, che sono un divoratore di libri, probabilmente non avrò mai, ma per il semplice fatto che i libri me li compro per me, me li leggo da me quando voglio io, invece loro si confrontano con una domanda e offrono anche una risposta, è molto interessante. Ma certamente, la domanda che... Sì, dimmi. No, scusa, non volevo interromperti. No, ho detto assolutamente, no, stavo solo dicendo... Ok, faccio una piccola parentesi perché c'è un altro aspetto tecnico che voglio raccontare a chi ci ascolta, che è molto importante, che per lavorare su un microfono solo, naturalmente questo microfono ha un volume spaziale, quindi tra le cose che sicuramente sentirete, perché il volume è veramente spaziale, c'è il ventilatore alle nostre spalle, perché nel mio studio, tra virgolette, ci sono 400 gradi e fa un caldo mortale, soprattutto a quest'ora. E l'altra cosa, naturalmente, è Lucia, che è la mia compagna. Che vi... Esatto, adesso vi ha appena salutati, che probabilmente... Non so se Marco è riuscito a sentirla, ma è entrata in microfono, no, quindi no. Si sentirà tutto lo scalpiccio, il lavorare. È un po' il bello, è il famoso è bello della diretta, nel senso... Potrei anche mettere un audio sottofondo, ma è più bello, è più bella la vita di tutti i giorni. La domanda che io volevo farti, presa questa pausa, questo respiro, è: detto questo, che cosa, quanto e che cosa leggono i detenuti invece ordinari? Nel senso, che tipo di risposta ti danno rispetto all'esistenza della biblioteca? È anche interessante sapere cos'è che piace di più. Ma allora, per quanto riguarda, allora, ti posso dare intanto un numero, giusto perché i numeri fanno un po' capire l'entità del, cioè fanno capire un po' di quello di cui stiamo parlando, che più o meno durante l'anno si prendono in prestito una quindicina di 15.000 volumi, quindi sono parecchi, all'interno di un carcere comunque contiene più o meno 1.400-1.500 persone. Beh, sì. E che cosa leggono? Questa è una domanda che spesso mi fanno, e vabbè, oltre ai capisaldi del carcere, che sono Bunker, che sono Wilbur Smith, Ken Follett, Ludlum, Camilleri, eccetera eccetera, in realtà poi, come nelle biblioteche fuori, si legge di tutto, si legge veramente di tutto, dal manuale di psicologia alle poesie d'amore al Piccolo Principe, cioè si legge veramente di tutto, e anche saggistica, devo dire, cosa che all'inizio, quando ho iniziato a lavorare, pensavo che fosse una, come dire, una parte che non sarebbe stata tanto utilizzata. Cos'è più forte la tua biblioteca? Cioè, qual è la tipologia di libro che tu dimmi, io ce l'ho, tu è tranquillo? No, beh, narrativa abbiamo tanto di narrativa, quindi poi adesso sono tre anni che abbiamo una collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino. Ah, okay. E abbiamo fatto un accordo con loro, che loro mensilmente ci inviano tre libri in tre copie per le varie biblioteche, su tutte le novità editoriali, che questo era nato un po', questo progetto, quando c'è stato un blocco di finanziamenti del Comune di Torino, e allora a quel punto sono andato a cercare anche un po' altrove, come dire, come poter ampliare la biblioteca, perché lo svecchiamento è stato un'altra delle cose iniziali che è stato fatto, cioè eliminare tutti i libri vecchi e cercare anche cose nuove. Ma tipo libri vecchi? Con gli acquisti, quindi... Cosa intendi per libri vecchi? Possiamo... Intendo tutto, ad esempio, c'era tutta una parte di libri scolastici che in realtà di 20 anni fa, 30 anni fa, che in realtà poi i libri scolastici non vengono tanto utilizzati in carcere. Okay. Per questioni di spazio abbiamo eliminato le enciclopedie, che in realtà è un settore che in carcere non viene per niente utilizzato. Quindi Malcolm X era fregato. Occupa tanto spazio. Niente Malcolm X tanto spazio, ma... in realtà poi vengono poco sfruttate, quindi poi vanno tanti fumetti anche, ecco, una cosa che va moltissimo sono i fumetti. Ma davvero? Qui mi scateni. Ma tipo Tex Wheeler va per la maggiore. Tex non lo batte mai nessuno. E anche riviste, non avevi anche riviste? Vai Marco. Hai riviste, sì, anche poi delle riviste. Sì, abbonamenti a 3-4 riviste che ogni anno cerchiamo di cambiare, eccetera. E poi abbiamo anche i CD musicali, che è un'altra cosa che viene data in prestito, abbiamo circa 2000 CD musicali, quindi le persone hanno i lettori, chi ha il lettore, che loro possono tenerlo, può anche prendere in prestito il CD. Ma visto che stavamo parlando appunto di numeri e dicevamo il numero è importante, quanto c'era prima, qual è, diciamo così, il numero del rinnovamento, nel senso rispetto allo svecchiamento e anche rispetto a quello che ci dici fumetti CD, gli abbonamenti, cioè quale può essere una cifra realistica di cose che da quando sei arrivato hai contribuito a portare? Non so se ho capito, se è chiara la domanda. Sembra quasi autocelebrativo. Racconti tu, è una celebrazione che ti è dovuta, nel senso, naturalmente, in collaborazione con tutta l'amministrazione. Secondo me, che ha fatto molto cambiare quello proprio del rapporto più diretto, nel senso che, appunto, andando di persona i ragazzi nelle sezioni, è ovvio che tu, secondo me, di 4-5 volte rispetto a prima. Perché se tu devi fare una domandina, che leggi su un catalogo che ogni tanto arriva, ogni tanto non arriva, poi fai la domandina, la imbuchi, dalla buca deve finire poi all'assistente che la porta in biblioteca, per 1500 persone, tu immaginati come può essere un po' complicata la gestione. In realtà, avendo delle persone che vanno continuamente su e giù, tu hai la possibilità di dare tutto quello che vuoi, quindi è ovvio che... cambiando un po' l'organizzazione si sia amplificato. Quindi diciamo che l'ampliamento... La cosa personalmente di cui vado più orgoglioso in realtà poi sono tutte le attività culturali che vengono fatte, perché lì proprio c'è un rapporto diretto tra chi, l'autore, lo scrittore importante anche che viene da fuori e la persona che segue l'incontro. Quindi tanti incontri che abbiamo fatto, secondo me, hanno un impatto molto, molto buono rispetto a... alla relazione tra il dentro e fuori, le attività culturali, eccetera eccetera. Allora, ad esempio, adesso a luglio, se posso, così, visto che è una cosa fresca, mercoledì prossimo verrà un musicista, un cantante, compositore, si chiama Didier Caria, e faremo gli incontri anziché in biblioteca, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo richiesto l'utilizzo di un'area verde, che è quella che dove i detenuti fanno i colloqui, quindi un'area all'aperto, molto carina, anche molto bella, ben fatta. Quindi faremo tre incontri a luglio in quest'area verde, coinvolgendo una quarantina di persone ogni incontro, e il primo sarà appunto con Didier Caria, che farà una lezione concerto, ti porterà tutta un'attrezzatura, lui utilizza Loop Station, compone dal vivo, eccetera, eccetera, quindi farà un incontro anche abbastanza interattivo con i detenuti. C'è un compositore franco. Poi lunedì dopo invece verrà un filosofo che si chiama Leonardo Caffo, questo appuntamento lo facciamo in collaborazione con il Circolo, che fa, partendo da uno dei suoi libri che ha scritto, farà una specie di lezione di filosofia. E l'ultimo appuntamento, che sarà poi a fine luglio, stiamo ancora decidendo tra due autori che sono Gianni Farinetti o Enrico Camanni, stiamo solo vedendo sul discorso delle disponibilità che hanno. Quindi stiamo riprendendo anche da quel punto di vista, che era importante perché si è bloccato tutto per tutti questi mesi, da dentro non è successo quasi niente. Ma infatti devo dire che questa tua parentesi apre un sacco di domande e di possibilità. Allora io direi che possiamo prenderci una piccola pausa. Io avevo in mente di far sentire l'audio di Happy Old Year che mi hai mandato tu. Ti chiederei una breve presentazione. Cosa sì, quando prima ti dicevo che una delle cose che faccio è quella delle biblioteche in carcere, l'altra mi occupo di teatro da quasi 20 anni, sono regista di una compagnia che si chiama Anticamera Teatro. Happy Old Year è un monologo teatrale che ho scritto qualche anno fa e che è andato in scena per quasi 3 anni, facciamo una tournée negli appartamenti, quindi questo testo mi ha messo in scena nelle case. Beh. E l'audio che ti ho mandato è estratto proprio da questo monologo che si chiama Happy Old Year. Ok, perfetto. Allora ci ascoltiamo monologo tratto da Happy Old Year, scritto e letto, se non sbaglio. Lo stai anche leggendo tu? Sì, è letto. Scritto e letto da Marco Monfredini. Pensa se ci mettessimo tutti d'accordo e facessimo 10 secondi di silenzio in tutto il mondo contemporaneamente. Anche gli animali, intendo. Il vento, il mare fermo come se fosse cementificato, niente pioggia o neve dal cielo, tutto fermo in un solo respiro, tutti senza aria nel petto. Sai che rumore dopo? Un'unica tirata di fiato di tutti gli esseri viventi di tutto il mondo che respirano la stessa boccata d'aria. E invece sbadiglio da solo. Servono cassetti del caos a chi mette sempre tutto in ordine. Serve un posto dove si possa fare caos, ma avendone il controllo, potendolo circoscrivere. È bello sapere che lì puoi buttare qualcosa alla rinfusa ma che non sia visibile agli altri. Un buco nero facilmente illuminabile. Io al cassetto del caos sono proprio affezionato. È un posto dove puoi trovare cose che non ti ricordavi di aver messo. Dove puoi scavare sporcandoti le mani senza avere aspettative. Uno spazio dove lasciare oggetti che un giorno ti saranno utili o forse mai, ma tu sai che sono lì. Il cassetto del caos è indispensabile al maniaco dell'ordine. Non potrebbe vivere senza. Forse al disordinato è necessario un cassetto dell'ordine. Uno spazio piccolo dove dentro sia tutto perfetto. Una piccola oasi di perfezione. Una piccola oasi di imperfezione, il mio cassetto. Pensiamo di non essere manipolabili, ma poi lo siamo. Toglietemi tutto, ma non il mio brain. Come faccio a conoscere a memoria una pubblicità che non mi ha mai interessato? Odio gli orologi. Eppure conosco alla perfezione tutti gli slogan di altri prodotti pubblicitari. Per chi non si accontenta, proventa. Chi è che li fa e nessuno li distrugge? Zoppas. Altissima, purissima, levissima. Ciribiribin, Kodak. L'analcolico biondo che fa impazzire il mondo, Crudino. Contro il logorio della vita moderna, Cinar. Amaro Montenegro, sapore vero. Crudo cotto, gran biscotto. Rex, fatti per essere il numero uno. Succede solo da McDonald's. Di chi è questo? È mio. Galbani, vuol dire fiducia. La lavatrice vive di più con Calfort. Dove c'è Barilla? C'è casa. Malizia, profumo d'intesa. O così, o pomì. Mangiar bene per sentirsi in forma, olio cuore. Ma lo fanno ancora. Per dipingere una parete grande è troppo facile. Più lo mandi giù, più ti tira su pure. Ti mette le ali? Troppo moderna. Silenzio! Parla Agnesi. Direi che è proprio finito adesso, tra l'altro giusto in tempo per godere appieno di qualcuno che ha la suoneria di un gallo sul suo telefono o una sveglia che suona con, diciamo, un certo vigore. Naturalmente io ho dimenticato di riattaccare il cavo di Marco. Siamo tornati in onda a Corrigonia, abbiamo Marco Monfredini in diretta con noi. E Marco, prima di partire col tuo contributo, si parlava di due cose. La prima sono le attività culturali organizzate dalla biblioteca, che, come dicevi, sono un po', se mi posso permettere di dire, il fiore all'occhiello, diciamo, comunque, come dicevi, una cosa che ti rende particolarmente orgoglioso. E poi c'è il discorso che adesso si riprende a farle, perché in effetti c'è stato un momento in cui non si sono più potute fare. Tra l'altro è molto bello il fatto che le facciate su un prato, perché tendenzialmente queste cose accadevano rigorosamente dentro, perché il concetto di dentro è la cosa più importante del carcere, purtroppo. E allora io ti volevo chiedere, siccome non si può tanto prescindere da questo, cosa è successo durante il lockdown? Cioè, come si è comportata, come l'ha vissuta la biblioteca, anzi le biblioteche del carcere, come hanno vissuto il lockdown? Dunque, allora, io ho potuto prestare servizio circa fino a metà marzo, più o meno. Dopodiché ho ricevuto il diktat di non potermi recare, non tanto da parte del carcere, che invece loro avevano un'apertura diversa, quanto proprio dal comune di Torino, che con tutti i suoi dipendenti si è comportato nella stessa maniera. Certo. E ho ripreso molto prima rispetto ad altri miei colleghi, a inizio maggio, quindi più o meno il buco è stato di 2 mesi, il buco, diciamo, in cui io non sono potuto recare in biblioteca. In realtà poi ero comunque sempre in contatto con gli educatori, con gli agenti di polizia che di riferimento, eccetera eccetera, e con la direzione durante il periodo del lockdown, proprio perché sono scomparse tutte le attività per forza di causa maggiore. Quindi le scuole sono state chiuse, le attività che venivano fatte, il teatro, tutto, è stato tutto sospeso. La biblioteca abbiamo deciso invece di tenerla aperta. Perché abbiamo tenuto aperta? Perché nel momento in cui io ero fuori gioco, quindi non potevo recarmi in istituto, comunque i bibliotecari, come dicevamo prima, formati, autonomi, abbastanza autonomi sulle cose di base, hanno potuto portare avanti il servizio quasi normalmente, nel senso che poi ovviamente all'interno del carcere sono successe varie cose, ci sono stati dei casi di persone contagiate, quindi certo, l'organizzazione interna si è anche un po' modificata, quindi certe sezioni venivano chiuse, eccetera eccetera. Comunque fondamentalmente su 4 biblioteche su 5 la situazione è rimasta abbastanza immutata. L'unica biblioteca che è stata chiusa ed è stata riaperta solo la settimana scorsa è stata quella del padiglione di cui parlavo prima, perché è diventato un po' il luogo dove sono state messe le persone che avevano questi problemi di salute legati al Covid, quindi è diventato un po' una specie di piccolo padiglione Covid dove le persone, okay, anche quelle in sospetto di contagio venivano spostate, o comunque chi era contagiato, prima che ci fosse poi l'apertura, quindi le persone, alcune sono state anche mandate agli arresti domiciliari. E quindi diciamo che il servizio, forse l'unico servizio che ha continuato a funzionare è stato quello della biblioteca, proprio per questo motivo, per la sua organizzazione. Un servizio autogestito, di fatto. Nel senso, di fatto è stato autogestito con un lieve coordinamento. Poi ovvio che quando sono tornato qualcosetta da mettere a posto c'era, però comunque fondamentalmente è andata bene. Giustamente andata fuori onda ci facevi notare bene, che il bibliotecario, io questo lo so perché io non ho dato esami all'università, non per caso, su biblioteconomia e tutte queste robe qua, fare bibliotecario non è esattamente una roba per tutti, ci vuole una certa tigna, una certa precisione, anche, come dire, una certa predisposizione, per cui naturalmente probabilmente sulla formazione di questi tuoi collaboratori un giorno potrai scriverci, non so, uno spettacolo, un romanzo, qualcosa del genere. Può essere. Quindi, sì, tornando... Sì. E poi ripeto, dimmi. Sì, dimmi. No, vai, figurati. Siamo qui apposta. No, visto che hai parlato di spettacolo, mi è venuto in mente che con loro facciamo anche dei percorsi di teatro, perché appunto, come vi dicevo prima, mi occupo di teatro. Voi forse siete anche stati spettatori, nostri spettatori, in realtà, se non sbaglio. Una cosa che mi sono ricordato di aver dimenticato è che il primo contributo che è partito in questa trasmissione è uno spettacolo che noi abbiamo visto e che tra l'altro io ho già sponsorizzato su Radio Antidoto, che è L'Aumento, giusto? Il titolo è L'Aumento, non sbaglio, no? Sì, di Georges Perec, recitato, se mi posso permettere di lasciarmi andare, magistralmente da 3 detenuti, che non so se sono i tuoi collaboratori interni o se sono persone di, come dire, che invece hanno deciso di partecipare a margine alla tua attività teatrale. Diciamo che è stato un primo esperimento, per cui ho coinvolto tre dei ragazzi che lavoravano con me, e con loro abbiamo fatto un percorso di 4 mesi e mezzo di laboratorio, 2/3 volte alla settimana per diversi mesi, e poi abbiamo debuttato a maggio dell'anno scorso per il Salone del Libro, durante il Salone del Libro, con un pubblico che veniva da fuori, quindi è stato fatto sia per gli interni, quindi una decina di repliche all'interno, che al 5-6 repliche per il pubblico esterno, che è rimasto molto stupito, devo dire, dalla qualità, perché c'è sempre di nuovo quel discorso del luogo comune che si immagina il detenuto, come poi quando partecipi a un'attività e vedi queste persone che, come tu hai detto, interpretano magistralmente un testo, non te lo aspetti, quindi rimani certamente anche un po' spiazzato, e soprattutto ti porti fuori un'idea diversa che puoi comunicare ad altri. Sì, che è anche difficilmente inquadrabile, nel senso che comunque c'erano tre persone che hanno recitato molto bene un brano, peraltro non facile, di Georges Perec, il quale non è stato neanche scritto in forma testuale, ma è un diagramma di flusso che immagino tu abbia ridotto in forma testuale, e tra l'altro ti faccio i miei complimenti, perché è stato un lavoraccio. No, in realtà il testo è così, è un diagramma di flusso, ma lui l'ha scritto proprio per il teatro. Ok, quindi c'è anche la parte di testo, diciamo, non c'è solo il diagramma. Sì. Ok, sì. È già rassicurante. Però il discorso è che effettivamente tu non sai mai da dove escano fuori queste persone, nel senso che il carcere è un micromondo, in realtà c'è qualsiasi tipo di persona e di storia, esatto. E quindi, nel senso, puoi anche smettere di sorprenderti, però alla fine invece poi ti sorprendi sempre, perché non pensavi che potesse esserci qualcuno dentro al carcere che potesse leggere così bene Perec. Ma la domanda che ti volevo fare, io volevo un pochettino approfittare della tua presenza qui anche per parlare anche un po' della tua esperienza personale all'interno del carcere, e siccome tu sei teatrante, e siccome il teatro è una delle cose che nella mia esperienza vanno di più in assoluto come attività nel carcere, ti volevo chiedere com'è stata la tua esperienza nel proporre queste cose, nell'affrontare i testi e nel preparare gli attori. Sì, allora diciamo che io ho avuto altre esperienze di lavoro con persone che non fanno teatro nella vita, quindi certo, mi portavo dietro tutto quel bagaglio, che però è stato interessante, come dire, spendere lì dentro, proprio perché allora, da un lato la facilità era dovuta al fatto che proprio che io queste persone le conoscessi già, quindi avevo già fatto un percorso con loro, quindi okay, ovviamente è stato semplicemente una cosa in più rispetto a tutto il resto. Rispetto magari ad altre attività che una persona si iscrive, poi va per la prima volta, poi non sa bene come fare, eccetera. La furbizia che ho avuto di coinvolgere loro è stata anche quella di avere continuità con loro, perché io sapevo che potevo avere davanti a me un periodo in cui queste persone avrebbero seguito questa attività, e c'erano anche perché loro erano lì fisicamente, quindi per raggiungere una certa qualità devi avere quella costanza lì, che certo, tante volte invece non riesci ad avere, proprio perché appunto magari ti inizi il percorso con delle persone, poi una persona va via, se ne inserisce un'altra, eccetera eccetera. Quindi al di là di tutto questo, poi invece il percorso con loro è stato molto interessante, perché loro stessi, cioè vedere loro stessi mutare nel tempo, ma soprattutto vedere come, cioè all'inizio se tu li avete visti, alcune un paio di loro non riuscivano quasi ad articolare nella lettura, no? Quindi tu all'inizio parti nel percorso, io dentro di me sapevo che sarei arrivato a quel risultato, loro no, e quindi giorno per giorno le prime 7-8 prove, ma anche 10 prove, uno dei tre voleva assolutamente abbandonare, facciamo cagare, non è assoluta, ma non mi faccio le figure davanti alle persone, eccetera, eccetera. Ma molto seriamente voleva boicottare, ma serissimamente. E poi dopo tutti quei mesi di lavoro costante, eccetera eccetera, alla fine lui stesso ma quante prove avete creduto, cioè, perché ha visto per quanto tempo ripeto, due o tre volte alla settimana per 4 mesi, quindi per forse quello prima di insegnare a utilizzare la voce, diaframma, articolazione, eccetera, più tecnico, poi siamo passati più sul discorso interpretativo, e poi siamo partiti a lavorare più sul testo, sui significati, anche su tutto il resto. Ma voi... Però è veramente bello vedere come le persone nel tempo cambino idea anche. Ma tipo sul il testo, per dirlo in breve, è la storia, il racconto espresso sotto forma di diagramma di flusso, che è un po' il meccanismo umoristico, nel senso è un testo che strappa più di un sorriso e anche qualche risata, che parla di questo impiegato che deve andare a chiedere un aumento. E questo impiegato non si limita semplicemente, diciamo che lo fa lui, però non si sa effettivamente chi è il narratore poi principale di questa storia. Mm-hmm. Però sì, viene sviluppato il racconto di tutte le possibilità sotto forma di diagramma di flusso che possono capitargli dal momento in cui esce l'ufficio al momento in cui chiede, esatto, l'aumento, più appunto tutti i possibili fallimenti e anche i possibili fallimenti nel percorso, nella richiesta, nell'ottenerlo, ma anche i fallimenti nell'ottenerlo. Ed è un testo meraviglioso. E qual è stata, come l'hanno vissuto nello specifico, diciamo, i tuoi tre attori? Allora, diciamo che la scelta, loro lo consideravano, soprattutto all'inizio, prima di capire gli effetti su un ipotetico pubblico, lo consideravano assolutamente ridondante, perché lo è, però non riuscivano a scorgere le potenzialità dietro questa ridondanza, dietro questa costruzione, proprio come un diagramma di flusso, che alla fine riesce appunto a strapparti una risata, comunque a farti mettere ancora di più nella condizione di quella persona che costantemente deve chiedere qualcosa a qualcun altro. E un po' la mia scelta è stata anche quella, la scelta di questo testo, proprio perché a me non piace tanto fare attività dove si parla di carcere, se non è strettamente necessario, no? Certo. Perché già lì dentro si parla quasi solo esclusivamente di carcere, quindi per me il ruolo che devo avere io lì dentro è quello di portare i discorsi da altre parti. Certo. Però quel testo lì poteva in qualche modo riparlare della loro situazione, di dover andare da qualcun altro sempre a chiedere qualcosa per ottenere qualsiasi cosa di cui loro hanno bisogno. E quindi anche questo meccanismo di ridondante di farlo tutti i giorni, Certo. Quindi era anche un po' autobiografico se portato nel loro contesto, però assolutamente non parlava di carcere. Quindi loro questo poi l'hanno capito, no? Quando poi loro, finito gli spettacoli, a un certo punto poi spiegavano loro lo spettacolo, quindi spiegavano tutta questa cosa alle persone che venivano, eccetera. Quindi... questo è uno spettacolo che tu hai portato a un pubblico esterno, perché lo so, perché io ho fatto parte di questo pubblico, però forse l'hai portato anche a un pubblico interno, giusto? Forse l'avevi già detto. Sì, ma l'abbiamo fatto sia in quel periodo del restaurante del libro per una decina di volte. Sono state create tantissime occasioni durante l'anno per farlo in altre situazioni. Ad esempio, ho realizzato un incontro con il regista Gabriele Vacis, che è venuto in istituto, e lui è venuto a vedere lo spettacolo, è venuto un pubblico di detenuti, e poi con lui abbiamo fatto tutto un discorso poi sullo spettacolo che poi lui ha un istituto di cura della persona con cui attraverso il teatro fa un progetto con persone che non fanno teatro in luoghi particolari. E quindi è stata anche occasione di parlare del teatro sotto forma di... cioè legandolo all'incontro dello spettacolo. E poi ci sono state tantissime altre occasioni dove un pubblico interno, oppure quando c'è stata ho dovuto fare una formazione ai ragazzi del servizio civile che lavorano in biblioteca, è stata un'occasione anche per far vedere ai ragazzi questo spettacolo. Hanno fatto 200 repliche. Per parlare delle biblioteche. Sì, no, hanno fatto ma minimo 40 repliche, 35 repliche. Micidiali, cioè adesso lo sanno a memoria. Possono farlo a occhi chiusi. In realtà l'obiettivo, che poi non è stato raggiunto solo per una questione burocratica, era di portarli a farlo fuori, al Carignano. Però per una questione di una persona che non ha i termini per uscire non abbiamo potuto farlo, certo. Però l'obiettivo era anche quello. Ma adesso che loro hanno come dire, lavorato così duramente su questo spettacolo, hanno voglia di fare qualcos'altro oppure hanno deciso questo è l'apice della nostra storia? Una persona non c'è più di questi tre, per cui l'altro è lì per, e quindi ne rimarrebbe solo uno, per cui la mia idea purtroppo ha avuto comunque la sua vita questo spettacolo. Ok, quindi è una compagnia, però, diciamo, one shot. La mia idea è quella poi comunque di continuare con altre persone, con qualcuno di loro, con uno di loro e con qualche altra persona coinvolgere a fare altre cose, quindi... Ma io mi sono messo da parte questa domanda, che è una domanda a cui tengo molto, perché è una domanda Secondo me è difficile, nel senso che potrebbe non portare da nessuna parte. È un po' anche trabocchetto, perché quando si parla di vita carceraria si parla dei detenuti e si parla delle persone che fanno attività nel carcere, quindi i volontari, quindi il bibliotecario, gli educatori, bla bla bla. E questo va tutto molto bene, però tutte queste cose vengono fatte ed esistono sotto lo sguardo di un gruppo di persone, peraltro nemmeno così sparuto, nel senso abbastanza nutrito, che sono gli agenti della polizia penitenziaria, piuttosto che altri che non saprei dire, però magari appartenenti all'amministrazione penitenziaria, che magari non sono poliziotti, ecco. Gli educatori, per esempio. Sì, che poi gli educatori sono figure abbastanza neutre, diciamo, almeno nella mia esperienza. Però, per esempio, i famosi assistenti, quelli che non si possono chiamare guardie, come vivono i libri? Cioè, l'esistenza della biblioteca e la possibilità del teatro? Cioè, qual è il tuo feedback? Cioè, ricevi un feedback? Davvero? No, scherzo, così radicale? Scherzo. No, non mi stupirebbe. Scherzo. Come in tutte le, come in tutte le cose, io credo che la differenza la fanno le persone. Quindi io trovo all'interno trovo delle persone estremamente collaborative, estremamente intelligenti, agenti, sto parlando in questo caso, e delle altre persone che in realtà forse sminuiscono anche un po' le cose che avvengono all'interno, ma non solo la biblioteca in generale, no? Quindi c'è un po' di tutto. Allora, il grande, cioè il bello del lavoro è anche quello di riuscirsi a trovare delle relazioni, delle collaborazioni che permettano di sviluppare le cose in maniera positiva per tutti. Quindi, ad esempio, una volta mi è successo che un agente ha partecipato a un incontro proprio al blocco Edo di cui parlavamo prima e dopo mi abbia ringraziato alla fine dell'incontro dicendo: io non avevo mai partecipato a un incontro con uno scrittore ed è stato veramente interessante. E quindi poi capita quella volta che invece che l'assistente esce, come dire, sì, vabbè, abbiamo finito, andiamo via finalmente, eccetera, eccetera. Quindi, però comunque diverse sono costretti a partecipare, almeno 3 o 4 quando facciamo gli incontri partecipano. Io comunque ho trovato tendenzialmente sempre un atteggiamento positivo nei confronti di queste cose. Bene, bene. E rispetto ai carrellisti vi fanno storie? Quella... Questi carrellisti lì, quando iniziano i primi giorni non li vogliono quasi mai far entrare perché non li conoscono, perché chissà cosa vanno a fare, li controllano tutti i libri, poi quando iniziano anche loro a essere una presenza costante e che si riconosce quella persona in quel ruolo, devo dire che abbiamo fatto fatica per un po' di tempo, per diverso tempo a fare i prestiti dentro le sezioni ad alta sicurezza, perché poi ovviamente ci sono, come ripeto, dicevo prima, situazioni particolari. In alta sicurezza questi i bibliotecari che lavorano come non possono entrare, quindi il carrello viene portato lì davanti, viene consegnato a una persona dentro e quella persona dentro fa, diciamo, il giro all'interno della sezione. E lì per un lungo periodo abbiamo avuto un po' di difficoltà in una sezione, che poi però si è risolto anche quello poi abbastanza facilmente. Gli assistenti non possono prendere in prestito i libri alla biblioteca? Questa è un'altra cosa che mi piace molto invece, che tutti gli operatori del carcere possono utilizzare la biblioteca. Quindi potrebbero. Noi non abbiamo soltanto i detenuti che prendono i libri, non potrebbero, lo fanno. Soprattutto gli infermieri, i psicologi sono accanitissimi sostenitori della biblioteca del carcere, cioè vengono giornalmente, gli agenti anche, gli educatori anche, può venire chiunque. Quindi è come, quella specie di bar nei film dove ci può essere lo sceriffo, ma possono esserci anche i quelli che rubano il bestiame, però dentro il bar non ci si spara, diciamo. No, assolutamente. E tu sei il barista. Anche perché appunto, avendo collaborazioni... C'è stato un periodo in cui avevamo più libri nuovi noi che alla biblioteca all'esterno, quindi le persone che lavoravano all'interno dicevano: mi conviene prenderli qua i libri. quindi volevo. Però comunque nell'ordinamento penitenziario è previsto, comunque nella direzione è previsto che venga, cioè che il prestito sia per tutti quelli che lavorano. Ed è ovvio che anche queste cose vanno un po' stimolate, perché poi ci sono delle persone che dicono: ah, ma non si può andare, posso prendere il prezzo? Certo che puoi prenderlo. Quindi quando si inizia a diffondere la voce, poi le persone vengono e utilizzano il servizio. È veramente un argomento e un mondo molto molto vasto, perché secondo me il libro è uno strumento che ha una potenza pazzesca da qualsiasi punto di vista. Cioè, non mi stupisce sentir dire che una persona che non ha mai letto poi di punto in bianco ne legge 5 alla settimana, e non sarei così stupito di pensare che, appunto, con la scusa che gli assistenti partecipano a questi incontri, poi si crei un reale, come dire, una specie di rapporto, di flusso, di relazione più stretta anche tra, appunto, agenti barra assistenti che frequentano la biblioteca, detenuti che frequentano la biblioteca e tutti gli altri che frequentano la biblioteca. Ciò detto, noi ci rimangono 10 minuti e volevo invitare Marco P a sparare la nostra ultima cartuccia, posto che, tra parentesi, io potrei persino sequestrarti e fare un'ora solo sulla biblioteca della sezione femminile, perché la sezione femminile è un po' una mia ossessione, ma è un'ossessione in generale, perché è un universo misterioso, misteriosissimo, quindi bisognerebbe parlarne molto di più, ma bisogna parlare solo di quello tutto. Di quello c'è una mia collega che si occupa soltanto della biblioteca femminile, per cui se vuoi poi ti metti in contatto con lei. Io ci vado, ma c'è lei. Lei non lo sa, ma è già arruolata. Segreti. La prossima puntata. Marco, è affascinantissimo questa cosa, che molte cose non si sanno, cioè siamo partiti dalla biblioteca e poi in effetti è come se il libro fosse un grimaldello per aprire poi mille strade dentro, no? Sembra proprio l'idea del bar, esatto, in cui, esatto, tutti alla fine ci entrano, cioè chi a prendere il cappuccino, chi a fare una telefonata, però la biblioteca ci entrano praticamente tutti. Quello che volevamo chiederti è questo, cioè che ne discutevamo anche prima, cioè che il rovescio di chi legge, cioè di chi scrive, nel senso che sappiamo che ovviamente in carcere ci sono tante persone che leggono, ma forse perché leggono o forse perché no, c'è anche tanta gente che scrive, quindi che usa il libro magari per fare delle ricerche, libri per svagarsi, saggistica per documentarsi e poi scrivere a loro volta. Noi ovviamente abbiamo in testa una persona che conosciamo entrambi del polo universitario, di cui è uscito adesso il libro qualche giorno fa da Giunti, quindi Accadde a Torino, e che tu conosci, immagino, ci dicevi che sei tu che poi, come anche noi spesso, che lo invitavamo a scrivere, a partecipare a concorsi. E non sarà l'unico, poi immagino, dentro il carcere. Noi conosciamo quelli del blocco E del polo, perché li conosciamo personalmente, ma ce ne saranno poi forse anche altri in tutte le sezioni, che se non un romanzo, magari due poesie, un racconto, te lo buttano giù per conto loro la sera. Tu ne conosci? Sì, ma infatti, ad esempio, cioè, poi ci sono tantissimi concorsi all'interno di carcere d'Italia. Io nella fattispecie ne seguo uno in particolare, che è quello del Bruno Ventavoli di Tutto Libri di Torino, che da due anni che facciamo questo concorso, per cui io formo delle giurie di detenuti che valutano i libri di scrittori famosi. Loro scelgono ogni anno 3 libri. Io all'interno del carcere formo una giuria di una 20-25 persone che devono leggere questi 3 libri, e loro insieme a poi a tutti gli altri detenuti, gli altri carceri d'Italia coinvolti, danno poi un premio a uno scrittore importante. E allo stesso tempo c'è un concorso letterario dove il detenuto può partecipare, ogni anno c'è un tema, e appunto per questa persona che dicevi prima, che si chiama Roberto Ceresa, un paio di anni fa l'ho un po' invogliato, lui non voleva, l'ho un po' invogliato a partecipare, era un po' restio, lui ha scritto 5-6 se non 7 romanzi, e quindi ho detto questa è la volta buona, perché cercano proprio un romanzo, perché poi a volte cercano poesie, cercano piccoli racconti, è difficile trovare persone che scrivono proprio romanzi interi, no? Quindi sono più persone che scrivono magari appunto lettere, poesie, eccetera. Quindi in quel caso lì mi sembrava veramente un'opportunità da non perdere, e quindi ha partecipato e ha vinto, quindi ha vinto anche una cosa prestigiosa, nel senso che ha vinto una pubblicazione. Solitamente si fanno poi le pubblicazioni, però magari con piccole case edifici, autoprodotte, eccetera. Invece in questo caso lì è uscito questo ebook di Giunti Editore, proprio 3-4 giorni fa, e quindi è stata una bella soddisfazione, soprattutto per lui ovviamente. Ma senti, visto che abbiamo ancora 5 minuti, io volevo farti un'ultimissima domanda di quelle che mi sono segnate, che effettivamente mi piacerebbe molto, cioè vorrei tanto farti. E cioè, come vedi, cioè, qual è il tuo progetto a lungo termine per questa biblioteca? Cioè, tra 10 anni, che cosa ti piacerebbe che fosse? Cioè, la vorresti così, la vorresti più grande, più attività, più persone? Ci hai mai pensato? Hai mai fatto un pensiero di questo tipo? Sono un po' troppo ancorato nel presente, nel senso che c'è sempre, sono tante milioni di cose da fare, essendo poi appunto l'unico che si occupa di questa cosa, un po' passare da me. Però no, in realtà c'è un obiettivo che è a lungo termine, ma non è tanto a lungo termine, nel senso che io sono diversi anni che ci lavoro e spero di ottenerlo presto, che è quello in realtà di far scendere le persone, non dico liberamente, ma farle scendere di più in biblioteca, quindi utilizzare la biblioteca, sì, il carrello, va bene tutto, ma mi interessa poi alla fine che le persone possano scendere e andare in biblioteca, oltre che per le attività, quando vengono organizzate, quando la persona voglia, quindi quello sicuramente è l'obiettivo fisso che ho da qui in testa, da quando è iniziato, e che non è stato ancora realizzato, ma spero presto di trovare. Più che altro bisogna trovare una soluzione organizzativa per far sì che questa cosa accada, quindi quello è un obiettivo. Poi l'altra sì, domanda sì, ne hai già parlato. Le cose. Le educatrici come vedono questa attività? Perché poi alla fine tutte le attività che svolgono in carcere dovrebbero avere l'obiettivo di reinserimento poi della persona. Quindi il libro in effetti in questo modo può diventare un mestiere, può diventare un percorso interiore, è effettivamente un mezzo. Le educatrici, posso dirtelo molto brevemente, mi amano e mi odiano. Perché mi amano perché comunque vedono che si fa un lavoro fatto bene, insomma, e mi odiano perché gli do tante cose da fare, nel senso che organizzano tutte queste cose, io non posso prescindere comunque da una loro collaborazione nell'organizzazione. Certo. E quindi loro sono già oberate di lavoro, gli do ulteriori carichi, quindi un po' mi amano e un po' mi odiano da questo punto di vista. Beh, comunque un punto di prestigio per il carcere, comunque sono comunque attività che ogni salone del libro, sì. Ogni circolo dei lettori, di questo se ne parla, e quindi è tutto vantaggio anche per loro. E tu invece poi cosa appunto, ti porti poi? Per chiudere... Dimmi. Com'è? No, io volevo chiederti... Ho detto che un po' non tutti i carceri hanno la possibilità che il servizio venga gestito da un sistema bibliotecario, cioè in alcuni carceri d'Italia ci sono, tipo ad esempio a Roma, però in tanti carceri le biblioteche sono gestite un po' più amatorialmente perché vengono gestite in maniera autonoma dai detenuti, quindi ovviamente se c'è la nostra presenza ci deve essere assolutamente un valore aggiunto rispetto a questo, altrimenti è molto più professionale rispetto. Certo. Ma per chiudere la domanda super personale, ma tu invece quando stacchi, diciamo, dal tuo turno, a parte la fatica di affrontare tante difficoltà legate a un sistema amministrativo che non fa sconti a nessuno rispetto